Europa 24. L'Europa ha bisogno degli immigrati per la sua economia e non può risolvere la crisi migratoria se non attraverso la cooperazione senza costruire muri. A parlare così alla Valletta, l'alto rappresentante europeo per la politica estera e di sicurezza Federica Mogherini. Fa la voce grossa l'Unione Europea e punta il dito contro quei paesi poco collaborativi sul fronte della redistribuzione dei migranti. Da marzo, spiega il vicepresidente della Commissione, Frans Timmermans, potrebbero partire le procedure di infrazione per gli stati che non effettueranno i previsti ricollocamenti dei rifugiati e quindi essere applicate le conseguenti sanzioni. In questa fase preferiamo fare pressione politica, da marzo sarà il momento per considerare passi ulteriori, dice ancora Timmermans, sottolineando che è ingiusto lasciare tutto il peso su Italia e Grecia, il controllo delle frontiere da solo non basta. E intanto, secondo gli ultimi dati del Viminale, al 3 febbraio sono 3.204 i migranti ricollocati dall'Italia nei paesi europei. Di questi, 240 sono bambini. Principale paese di destinazione è la Germania, seguita da Norvegia, Olanda e Finlandia, mentre molti altri paesi, come si diceva, latitano. Quanto agli sbarchi, il 2017 rischia di segnare un record. In poco più di un mese, infatti, tra il 1 gennaio e il 7 febbraio, sono stati 9.349 i migranti arrivati sulle coste italiane. Un boom, secondo il raffronto del Viminale, con i dati dello stesso periodo del 2016, quando a sbarcare furono poco più di 6.000. Andiamo in Gran Bretagna, atteso per oggi il voto in terza e ultima lettura da parte della Camera dei Comuni sulla legge, già approvata in prima lettura a larga maggioranza la scorsa settimana, destinata ad autorizzare il governo Tory di Theresa May a dare il via alla Brexit entro la scadenza di fine marzo indicata dalla Premier. Ieri l'esecutivo è riuscito a sedare una rivolta interna al gruppo conservatore a far bocciare un emendamento chiave presentato dall'opposizione laburista che lo avrebbe obbligato a sottoporsi ad un nuovo voto vincolante di Westminster sui contenuti dell'accordo finale di divorzio dall'Unione Europea, previsto entro 2 anni di negoziati con Bruxelles. Anche per i servizi a pagamento online arriva il passaporto europeo. Dall'anno prossimo chi si sposterà temporaneamente da un paese all'altro dell'Unione Europea potrà vedere in streaming film, musica, partite, gare di Formula 1 come se fosse nel suo paese di residenza. Questo è il risultato dell'accordo raggiunto fra Commissione, Parlamento e Consiglio Europeo, che dovrà ora essere approvato formalmente dalle istituzioni europee. Attualmente i cittadini che viaggiano da un paese all'altro dell'Unione non possono usufruire dei servizi online a cui ci si è abbonati. L'antitrust europea ha deciso di infliggere multe per circa 68 milioni di euro al cartello di 4 società che si erano accordate per abbassare i prezzi d'acquisto delle batterie usate in Germania, Belgio, Francia e Olanda, destinate al riciclo e ricondizionamento. Una pratica a danno di garagisti, sfascia carrozze e depositi di rottami costretti a vendere le batterie al di sotto del loro valore, ma anche contro i rivenditori di batterie usate. Ogni anno in Europa vengono riciclate circa 58 milioni di batterie. Ed era l'ultima notizia di questo Europa 24. Un saluto da Maria Piera Ceci. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.